Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, con la musica dei fuochi d'artificio di Handel, una musica molto vivace, iniziamo l'incontro di oggi con Edoardo Salvia, cacciatore di teste. Buongiorno, buon pomeriggio Edoardo Salvia. Buongiorno a tutti voi. Edoardo Salvia, cacciatore di teste, le va bene questa definizione? Va benissimo. Non ha sempre fatto nella vita il cacciatore di teste? No, ho fatto ben altre cose. Ben altre cose, sembra che fare il cacciatore di teste sia una professione residuale, invece è una professione molto importante. No, è molto importante, era piuttosto riferito alla lunghezza della mia carriera professionale. Quindi. È mai stato cacciato da un cacciatore di teste? Sono stato cacciato da un cacciatore di teste, è stata una circostanza estremamente fortunata per la mia vita professionale perché ci ha dato una svolta importante, quindi il mio primo incontro è stato un incontro molto positivo per l'effetto finale, non certamente per il processo di selezione. Allora, facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti di Edoardo Salvia. Nato dove? Io sono nato a Napoli, infatti mi chiamo Edoardo con la U, che evidentemente mi caratterizza. Parecchi anni fa, nel 1948, mi sono laureato in giurisprudenza. La mia prima significativa e importantissima esperienza è stata negli Stati Uniti, alla Boeing. Come mai è andato da Napoli negli Stati Uniti? Parlavo discretamente l'inglese. Mi ero laureato in legge e in diritto aeronautico. È arrivato del tutto fortuitamente una chiamata dell'allora Air Italia, che aveva un programma congiunto con la Boeing. Sono stato intervistato dall'allora alla fine di una serie di colloqui dell'amministratore delegato, il quale, guardandomi fisso negli occhi, mi chiese: ma lei quanti anni ha? E io dissi 22, e la risposta fu: San Gennaro, aiutaci tu, lei è assunto. Ah. E quindi dopo una settimana sono partito per la Boeing, dove mi sono occupato di, diciamo, assistere come junior assistant la società Air Italia in questa grande, lunga trattativa con la Boeing. Ed è stata un'esperienza straordinaria, ho lasciato il mio cuore lì. Veramente. Ecco, ma come mai ha lasciato poi? Perché era nel Texas? Era nel Washington State, siamo al nord del Pacifico, a Seattle. E in verità ho lasciato per, secondo me, una superficialità giovanile, perché ancora del tutto casualmente, alla fine del mio periodo, fu inserito con lo scopo di fare un training in un gruppo di venditori della Boeing e fummo mandati a Winnipeg, nel Canada, dove c'era un presidente di un'aerolinea, Transair of Canada si chiamava allora, di matrice italo-canadese, probabilmente di estrazione, almeno da parte genitori, napoletana, e quindi evidentemente abbiamo molto simpatizzato e siamo riusciti a vendere due aeroplani. Devo dire, la mia partecipazione è stata abbastanza marginale, ma questo ha dato una colorazione alla mia professionalità tale che mi offrirono di rimanere alla Boeing. Le condizioni erano tagliarsi la barba e diventare cittadino americano. Non so quale delle due è stata più pesante, io non mi sono né tagliato la barba, come vede, né diventato cittadino americano, e quindi al completamento delle mie esperienze sono rientrato in Italia. Quindi dopo un paio d'anni in America? Ho avuto un'offerta di lavoro all'IBM, uh-huh, e quindi sono transitato per un anno e mezzo a Parigi, poi rientrato a Milano, e dall'IBM il cacciatore di teste di cui stavamo citando prima mi ha tirato fuori e mi ha offerto una posizione come assistente di un famoso personaggio, e lì devo dire ho imparato un po' più la vita reale. Quindi eravamo alla metà degli anni 70? Eravamo quasi alla fine degli anni 70, metà alla fine. Ecco, se dovesse fare un paragone tra il mercato del lavoro in quell'epoca e il mercato del lavoro attuale, un giovane forse avrebbe molta più difficoltà a fare l'esperienza che ha fatto lei nel giro di 3 anni. Allora, da un lato quella fu un'esperienza abbastanza unica, non c'erano tante persone appena laureate che avevano la possibilità, barra la fortuna, di andare negli Stati Uniti e fare un'esperienza di questo genere. Però c'era certamente molto più offerta, c'era molta più visione rispetto a un mercato futuro. Oggi la situazione è molto più difficile, quindi ci sono delle expertise e delle esperienze di tipo internazionale molto più vaste. tutti viaggiamo, tutti abbiamo delle esperienze all'estero, c'è l'Erasmus, una volta non c'era, c'è l'esperienza università straniera, una volta era molto più difficile, eccetera, però le occasioni sono veramente limitate, quindi direi che la situazione odierna è molto più difficile per i giovani, non c'è dubbio. E comunque resta un consiglio fondamentale, quello a un giovane di andare all'estero con la prospettiva di tornare in Italia? Allora, io li manderei tutti all'estero, molto sinceramente. Il problema è andare all'estero a fare cosa? Quindi avere in qualche maniera la, se possibile, la consapevolezza che andare all'estero non significa soltanto stare all'estero, ma fare delle esperienze, che sono in parte esperienze culturali, formative molto importanti, e in parte sono esperienze, direi, linguistiche, di conoscenze tecniche. Quindi sì, certamente all'estero, con una visione chiara di che cosa si vorrebbe fare, possibilmente. Ecco, lei adesso fa il cacciatore di teste, è a capo di una delle maggiori aziende internazionali in Italia, di questa particolare ramo di attività. Come si diventa cacciatori di teste? La verità è che si diventa per caso cacciatore di teste, nel senso che non credo, almeno una volta, nessuno laureandosi o finendo il percorso di studi avesse mai deciso di voglio fare il cacciatore di teste. Io ci sono arrivato per caso e sono delle situazioni, direi, molto personali. In qualche circostanza avevo bisogno di rientrare su Milano e avevo bisogno di occuparmi un po' più da vicino della mia famiglia. L'attività di cacciatore di teste è un'attività molto intensa, tanto intensa quanto le altre attività lavorative, né più né meno, ma ha un grandissimo plus, quello di poter in qualche maniera regolare il proprio tempo ad uso e misura. Mi spiego meglio: intervistare dei candidati, o lei l'intervista il mercoledì piuttosto che il sabato, è lo stesso. Anzi, qualche volta i candidati preferiscono il sabato perché evidentemente è un momento in cui non sottraggono tempo al proprio lavoro, e quindi se abbiamo la possibilità di fare questo vuol dire che abbiamo spazi di tempo che possiamo dedicarci in altri momenti. Quindi può gestire meglio il proprio tempo, la quindi propria attività. È molto piacevole. C'è molta concorrenza in questo settore. C'è enorme concorrenza. Qui vorrei qualificare su che cosa significa concorrenza. Allora, fare il cacciatore di teste non significa fare la selezione, o non soltanto la selezione. Fare il cacciatore di teste significa capire l'azienda, conoscere il problema, analizzare le possibili soluzioni, identificare il profilo giusto e poi cercare la persona giusta. Fare selezione è un'altra cosa, trovarsi davanti a una persona e valutarla. Ecco perché per fare il cacciatore di teste, il mio suggerimento, ma anche la mia esperienza, è quella di aver fatto degli anni consistenti in azienda. La battuta che si fa spesso con dei candidati, soprattutto giovani, è quella di chiedere: ma qual è la figura più importante in un'azienda? E tutti cascano nell'errore di l'amministratore legato, il presidente, il controller, eccetera. No, è l'assistente del presidente, sì, è sì. Quella lì che in qualche maniera ti dà la possibilità di accedere. Voglio dire, è una battuta ovviamente, ma è fondamentale per fare bene questo lavoro conoscere i meccanismi anche psicologici in un'azienda. Qual è il posto, diciamo così, più strano che le è capitato di cercare? Magari quello del capo dei pompieri, dei pompieri reali, no? Ho tantissime storie, evidentemente, ma una mi ritorna alla mente molto facilmente. Intervistavo un ingegnere elettronico, adesso la mia visione dell'ingegnere è di grande rispetto, sono dei grandi professionisti, ma spesso sono un po' troppo asciutti, quindi per tirare fuori delle parole bisogna usare la dinamite. E alla fine, un po' disperato nell'intervista a questo ingegnere, gli chiesi: ma ingegnere, lei che cosa ama fare nel tempo libero? E un po' arrossendo questo signore mi rispose: io amo creare dei profumi. E la storia finì lì. Un paio d'anni dopo abbiamo avuto l'incarico di cercare un naso per i profumi da una famosa società francese. Io mi sono ricordato di questo ingegnere. Questa è stata una ricerca molto strana e molto fortunata. L'ingegnere è molto ricco, molto benestante, vive a Parigi felice e contento e fa quello che voleva fare come hobby. Quindi questa è stata veramente un'occasione un po' particolare. Ecco, lei ha parlato appunto molto ricco, le capita appunto di avere l'esigenza di trovare delle persone per dei posti che hanno delle remunerazioni anche molto alte. È cambiato anche in questa prospettiva? Si sente un po' la crisi? Allora, si sente certamente la crisi. Poi ci sono le persone eccezionali per urgenze eccezionali, per società di un certo tipo. In generale, se possiamo banalizzare, c'è una riduzione, direi, abbastanza importante, perché le aziende non sono più disposte a fare delle follie. Questo non solo in Italia? Questo non solo in Italia, soprattutto all'estero. In Italia si avverte di più. Incontri. Bentornati a Incontri. L'incontro di oggi è con Edoardo Sarvia, managing partner di Hodger & Benson, una società di cacciatori di teste. Abbiamo cominciato con la musica dei fuochi d'artificio di Handel. Come mai questa musica ti piace così tanto? Mi piace tantissimo perché la trovo molto viva, mi dà un grosso scarico di adrenalina, mi prende molto, non so perché, ma l'ascolto in tutti i momenti in cui ho bisogno di una carica, ascolto questo. Riprendiamo il nostro incontro con Edoardo Sarvia. Buongiorno e buon pomeriggio a quanti ci ascoltano. Edoardo Sarvia, managing partner di Hodger & Benson, che è la seconda società in Italia dei cacciatori di teste, in Europa mi corregge. Sì, quindi ecco, facciamo un po' la radiografia, quante sono le società che operano in questo settore? Non ci sono delle, poi bisogna vedere cosa si intende per settore, caccia di teste o selezione, ma facciamo di tutt'erba un fascio in quello che genericamente viene in chiamata caccia di teste. Beh, in Italia si dice che siano più di 2000. Ma è anche molto comprensibile, chi in qualche maniera lascia un'azienda e non ha alternative spesso e volentieri si mette a fare estemporaneamente questo tipo di professione, che è tutt'altra cosa per la verità. Diciamo che in Italia quelle che contano con una certa dimensione sono 10-12, non di ecco, più. Ecco, voi quante, che struttura ha la vostra società in Italia? Noi abbiamo due uffici, uno a Milano e uno a Roma, 6 partners e poi uno staff tra ricercatrici, segreteria, computer eccetera di una decina di persone. Come sta evolvendo questa professione, questa realtà in questo momento particolare di crisi un po' generale? Si sente la crisi? Come si sente? Si sente in quello che fate? Si sente in quello che cercate? Allora, la crisi si sente fortemente, non c'è ombra di dubbio, e si sente evidentemente sia per chi cerca lavoro sia per noi che facciamo questa attività, perché dipendiamo in qualche maniera dal mercato. La Hodger & Benson è il secondo gruppo europeo, ha un network di 55 uffici e quindi il lavoro di squadra, quindi l'Italia con altri paesi evidentemente è molto utile e ci aiuta moltissimo. Un cacciatore di teste poi alla fine finisce per fare il consulente delle risorse umane in un'azienda o dell'amministratore delegato, quindi non è soltanto limitato alla caccia di quella testa, alla identificazione di quel candidato, ma a tutta una serie di altre attività che si rivolgono al consiglio di amministrazione, che si rivolgono alle attività di valutazione delle risorse, al coaching quando è necessario. Fate anche l'operazione contraria, cioè non facciamo quello che si chiama il job out, facciamo soltanto il job in, perché le cose potrebbero essere, diciamo, eticamente contrastanti, se no uno prende una persona, la prende, la leva, la mette, la rileva, no, non è possibile. Come giudica il mercato del lavoro italiano, soprattutto nella fascia dei manager? Si è parlato nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, anche delle retribuzioni dei manager con stipendi, bonus superiori ai 1 milione di euro. Ecco, è una fascia ristretta o è qualcosa che sta allargandosi? Oppure c'è una grande differenza appunto tra i grandi manager e poi la classe media dei manager che hanno stipendi forse inferiori ai 100.000 euro? Allora, non si sta allargando certamente, non si sta allargando. È una, diciamo, caratteristica di grandi manager in grandi aziende in alcuni settori. Ci sono dei settori che tendenzialmente o storicamente vanno meglio di altri e questi hanno sempre pagato un po' più del normale. Se noi prendiamo il settore del lusso, della moda in senso allargato, è storicamente un settore che ha pagato in maniera molto più generosa che in altri settori equivalenti. No, non si sta allargando, direi che il processo di crescita da un punto di vista remunerativo è un processo che si è molto rallentato, perché le aziende sono molto più attente e perché ci sono anche dei segnali molto precisi che vengono al mercato, quindi si cerca in qualche maniera di moderare. Ciò detto, i manager italiani non sono pagati più dei manager europei, sono pagati di meno, e il problema del manager italiano è quello che poi gli rimane nella cosiddetta busta paga, perché tra onere sociali e tassazioni evidentemente quando andiamo a comparare netto su netto l'italiano è molto svantaggiato. Beh, comunque sempre meglio partire da 2 milioni di euro che non da 20.000 euro. Non c'è dubbio, però è molto più difficile oggi partire da 2 milioni di euro, questo è poco. Ma ci sono settori cioè, per non far nomi, quello bancario, che hanno delle crisi, hanno anche dei risultati aziendali abbastanza deludenti, eppure le remunerazioni degli grandi manager sono rimaste invariate, alte. Beh, il settore bancario è da sempre un settore abbastanza chiuso, quindi è molto autoprotettivo, non ci sono le grandi iniezioni di persone dall'esterno, con rarissime eccezioni evidentemente. Quindi sì, questo è un fatto. Quanto questo fatto sia corretto o meno, lascio a lei il giudizio. Lasciamo agli ascoltatori. Agli ascoltatori, diciamo di sì. Ecco, lei ha parlato recentemente di un manager 2.0, come dovrebbe cambiare il manager del futuro per entrare in un'economia che sta sicuramente cambiando per tanti elementi, non ultimo appunto quello della rivoluzione tecnologica, dell'informatica, della rivoluzione delle comunicazioni. Un manager 2.0 cosa vuol dire? Allora, il manager 2.0, questo è un acronimo o comunque una sigla per dire un manager dalle competenze integrate molto spinte, quello che poi peraltro dovrebbe essere un manager. C'è la frase di un famoso presidente della Mercedes-Benz che rispose, quando glielo chiesero, alla domanda: lei cosa fa? E lui rispose: io sono un facilitatore. Ecco, questa è un'immagine che mi piace molto. Il manager, poi soprattutto quelli di altissimo livello, sono dei grandi facilitatori, il che significa la capacità di avere delle conoscenze abbastanza integrate e abbastanza complesse. Questo livello di conoscenze, che una volta era appannaggio dei presidenti o degli amministratori delegati, sta scendendo lentamente verso la dirigenza alta, la media dirigenza, la bassa dirigenza, i quadri, dove evidentemente le persone si chiedono delle capacità di integrare non soltanto le conoscenze scientifiche, ma l'organizzazione, ma la comprensione delle persone, ma la capacità di sviluppare team, ma guardare a quello che sta succedendo intorno a noi. Uno dei fatti più importanti che sta succedendo intorno a noi è il clima della Terra, le risorse della Terra. Ne parliamo tutti, purtroppo sono stati fatti, se non sbaglio, 900 trattati, progetti a livello internazionale per fare in modo da scaricare un po' Madre Terra da tutto il gravame che noi gli diamo. Purtroppo poi di fatti ne sono stati fatti pochi, però è un fatto, l'energia, il clima sono due fatti importanti. Faccio solamente un brevissimo excursus. Sono molto attento al Canada, perché ho una figlia che lavora in Canada, che studia in Canada, ho una moglie canadese, ho degli amici in Canada, eccetera, e quindi ogni tanto Skype mi aiuta a mettermi in contatto. Ebbene, Ottawa 3 giorni fa aveva 26 gradi, ieri aveva 7 gradi. Allora, questo è un sintomo. Capita anche a Milano qualche volta. Capita anche a Milano. È un sintomo molto, molto forte che il pianeta in qualche maniera sta soffrendo. Allora, che cosa possiamo fare? Possiamo fare tutti qualcosa, le aziende in particolare. C'è una grandissima richiesta di green manager. I green manager certificati dall'associazione, in Italia sono 2650, se mi ricordo bene la cifra, ma ci sono degli studi che prevedono che nei prossimi 10 anni ci saranno bisogno di 2 milioni e 800 mila persone che abbiano questa competenza integrata. Questo è un aspetto dell'integrazione, ce ne sono altri indubbiamente. Ma oggi le risorse umane diventano sempre più critiche, sempre più uniche. Allora le persone che hanno responsabilità devono avere responsabilità integrata. Questo ci porta a fare un altro discorso che credo in qualche maniera sia molto interessante per me e per lei, se giudicando dall'esterno. C'è una, non voglio dire in corsa, ma un ritorno ai manager sopra i 50 anni. Perché la complessità delle conoscenze è tale per cui, se non sei Leonardo da Vinci, quelle conoscenze riesci a fartele nel tuo excursus professionale. Quella maturità professionale così integrata necessita di anni di esperienza. Questi anni di esperienza possono essere messi a disposizione delle aziende. Cioè un manager di 60 anni, ne piazziamo anche manager di 60 anni, ha davanti a sé almeno 5-6 anni di capacità, ovviamente se è in buona salute, eccetera, eccetera, di portare a dare dei contributi molto significativi. Quindi c'è un forte ritorno a queste competenze acquisite, a queste solidità acquisite. Ecco, ma ci vuole però una logica aziendale di sviluppo, se non di sviluppo, comunque di adeguamento a una realtà esterna, di sollecitazione verso una responsabilità verso la realtà esterna. In questa fase le aziende, gran parte delle aziende, sembrano più concentrate al fatto di ridurre i costi, tagliare il personale, cercare in qualche modo di galleggiare nella crisi. E questo è un altro degli argomenti a cui lascerei un giudizio finale agli ascoltatori, però io sono dell'opinione che se le aziende che vanno bene ristrutturano pur andando bene e per andare meglio rinunciano a un certo numero di persone addette al lavoro, hanno un duplice problema. Il primo è che eliminando dei lavoratori alla lunga eliminano il mercato. Se lei ha 50 persone licenziate che normalmente se ne trascinano un'altra, quindi 100 persone che non hanno la possibilità di avere degli introiti o dei guadagni, lei ha eliminato dal mercato 100 consumatori, perché evidentemente non spenderanno se non lì per necessario al minimo possibile. Se lei moltiplica questo per tutte le aziende, vede che è un disastro. Nel brevissimo tempo l'impresa risolve il suo problema perché abbassa i costi, nel medio termine no, perché rimane senza mercato, e senza mercato vuol dire il suicidio per l'impresa. È inutile sorprendersi che a Natale l'andamento delle vendite non è stato quello che ci si aspettava. Chi ha i soldi è un po' più prudente, chi li ha anche paura che un domani possa non averle, e chi non li ha non spende. Questa è la situazione. Vorrei tornare in quello che diceva prima, anche perché ci avviamo alla conclusione, che mi sembra anche importante. L'innovazione non è solo dei giovani, ci può essere un'innovazione che nasce dall'esperienza, che nasce anche dalla capacità di mettere insieme queste esperienze diverse e di portarle all'interno delle aziende. Quindi c'è una prospettiva anche per chi giovane non è. Indubbiamente questo è un fatto, ed un fatto importante. Certo, per i giovani è abbastanza disperante quello di dover in qualche maniera pensare che al completamento di tutti i loro obblighi scolastici e morali, quindi hanno studiato bene, sono laureati, hanno onorato il padre e la madre, come si dice in gergo, hanno seguito le regole che la società ha dato, e la società dice sorry. Ecco, però ci può essere, ci deve essere spazio per tutti, anche senza essere keynesiani, però quale può essere una soluzione vista appunto magari dall'interno del sistema delle imprese per invertire questa tendenza un po' pessimistica? Allora, certamente la flessibilità da parte di chi lavora, di chi ha il primo impiego. Dall'altro una maggiore certezza per quanto riguarda la assumibilità delle persone, il loro costo e il fatto che puoi volerne farne a meno, e qui entriamo nel discorso dell'articolo 18 e tutta la cosa. Non so come verrà fuori, ma certamente le imprese hanno bisogno di questi due punti di riferimento. Comunque, ecco, concludendo, possiamo dire che Edoardo Sarvia dal suo osservatorio resta ottimista? Direi che diciamo di sì. Un moderato ottimismo, ma un ottimismo. Grazie mille a Edoardo Sarvia, Managing Partner di Hodges Benson, che è una delle maggiori società di cacciatori di teste, così come ringrazio Filippo Regi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.